te, Tiziano Ferro e Calcutta. Nessuno di Latina se ne va a fare musica. Lontano da casa, dalla famiglia. Torno per Natale, parto alla vigilia. Sei un tradirei, non cercavo lei. Quella notte la credevo finita. Sai che impazzirò e dove finirò, se per ogni notte della mia vita. Sto con gli occhi viola, come fai a dirmi che sto bene da sola, se è tutto in disordine. Sola, sola, sola, sola, sola con me. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no idea. Dico, dico, dico, dico, dico di me. Solo, solo, solo, solo cattiverie. Tu non sai cosa mi ripeto di fronte allo specchio. Faccio cose di cui poi mi pentirò. Ho più voci dentro, fra il petto e lo sterno. Non so proprio quale ascolterò. E mia madre pensa ancora che non fumi. Le mie nuove quattro mura nella pancia di una nuvola. Mi passa l'appetito, fumo e poi mi sento stupido. Le voci che mi bussano e mi gridano: non fai niente di buono. Sto con gli occhi viola, come fai a dirmi che sto bene da sola, se è tutto in disordine. Sola, sola, sola, sola, sola con me. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no idea. Dico, dico, dico, dico, dico di me. Solo, solo, solo, solo cattiverie. Cantilena, e un'altra volta ancora lo stesso problema che mi tiene sveglia ma da sempre ferma. Si ripete spesso sulla tua frequenza. Mostrami che è tutto frutto di una coincidenza. E non farò mai pace con quelle parti di me. Ciò che manca l'ho riempito grazie alla tua assenza. E non ho più parole che rispondano al perché. Sto con gli occhi viola, come fai a dirmi che sto bene da sola, se è tutto in disordine. Sola, sola, sola, sola, sola con me. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no idea. Dico, dico, dico, dico, dico di me. Solo, solo, solo, solo cattiverie.